Ciao, ciao a tutti, Madonnina, Club Torino, Gabrio, venite a trovarci oppure mi trovate su IRC, Autistici, Madonnina. Allora, sto 10 minutes, cioè, spero che duri meno perché non è altro che un mega riassunto di questi due libri di un collettivo americano, Electronic Art Ensemble. È un mega pippone che loro hanno fatto nel 93 e poi nel 96 con due libri, The Electronic Disturbance e Electronic Civil Disobedience, che cercano di capire qual è la rappresentazione fisica del potere in quella che era l'America dei cambiamenti di quegli anni. Faccio questo 10 minutes principalmente perché quei libri che ho letto più e più volte mi hanno fatto sorgere tre domande che voglio porvi ad oggi per cercare di trovare una risposta con tutti voi. Quindi cercherò di portare un riassunto molto veloce di quelle che sono le tematiche che mi hanno colpito di più di quei due libri e cercare di capire come interpretarla alla luce 20 anni dopo la pubblicazione di quei due libri. Ora, iniziamo, evento 2016, Erdogan, Turchia, i militari prendono controllo dei canali di comunicazione mediatica, TV, radio turche, bombardano il Parlamento. Erdogan, che fisicamente non era all'interno del Parlamento, prende, tira fuori il suo iPhone, chiamata su FaceTime, contatta un giornalista della CNN e gira un messaggio che insomma informa la controrivolta turca, effettivamente fermando il tentato attacco dei militari. Ora, perché vi dico questo? Anni prima, quando avevo visto V per Vendetta, spero di non fare uno spoiler a nessuno, ma V per Vendetta finisce con l'esplosione del Parlamento e una massa di persone che inonda le strade. Ora, in V per Vendetta l'esplosione del Parlamento è molto importante perché far esplodere il Parlamento significava demolire il potere. Perché demolire il potere? Il potere aveva una presenza fisica che era delimitata all'interno del Parlamento. Del governo fittizio in V per Vendetta. Ora, quello che il collettivo cerca di spiegare in quei libri è che noi siamo sempre stati abituati a rappresentare il potere con una sua forma fisica, che erano le strutture, il Parlamento, le banche. In Fight Club si conclude con l'esplosione delle banche, ma prima. Sì, faccio solo spoiler di film d'ora in avanti. Prima delle banche abbiamo biblioteche, palazzi. Biblioteche, palazzi, che altro? Chiese, castelli e così via. Ora, la cosa importante è che tanto più queste strutture avevano una propria forma fisica che incuteva timore. Tanto più il potere era forte in determinate zone. Ora, fare opposizione significava organizzarsi fisicamente e localizzare il potere in una determinata zona e combatterlo fisicamente. Ora, Erdogan, il caso, con il, nel caso di Erdogan abbiamo capito che lentamente il potere si sta spostando, dobbiamo capire come. Bombardare il Parlamento non è più sufficiente e quindi se non riusciamo a capire dove il potere è localizzato, o perlomeno come si manifesta all'interno di uno spazio, dobbiamo pur cercarlo in qualche modo. Ora, anni dopo, l'anno scorso, il Congresso americano si fa la stessa domanda: come rappresentare fisicamente il potere di Facebook? Dove identificarlo? Che fanno? Chiamano Zuckerberg a difendere, insomma, a fare le veci di Facebook. E cercare insomma, fargli tutta una serie di domande cercando di fargli difendere la posizione di Facebook. Ora, quell'evento perché mi ha colpito? Il Congresso americano gli fa tutta una serie di domande, come ad esempio se cancello il mio account di Facebook, per quanto tempo vengono mantenuti i miei dati? Facebook fa tracking multidispositivi, quali dati vengono messi in vendita? Facebook censura determinati gruppi, oppure Facebook fa tracking degli utenti che non hanno un account sulla piattaforma e così via. Ora, Zuckerberg si trova lì e e riesce a rispondere a tutte queste domande sostanzialmente non rispondendo, dicendogli che lui non sa la risposta a queste domande e che dovrà fare un follow up con il suo team tecnico. Ora, questo mi ha stupito perché stiamo assistendo ad una trasformazione per la quale il potere non è più rappresentabile fisicamente né in uno spazio né in una persona, ma sta assumendo una nuova forma. Ora, la prima domanda che voglio porvi è: dove si sta muovendo il potere se non è più presente fisicamente in uno spazio che io identifico come il carne spazio, cioè la realtà fisica quotidiana? Dove si sta muovendo? Penso nel cyberspazio, ma in che modo allora lo possiamo identificare nella sua forma astratta nel cyberspazio? Ora, andando oltre, noi fare un atto di resistenza, i luoghi e i metodi della resistenza, la resistenza intesa come disobbedienza civile, che è una pratica a cui immagino molti di noi sono abituati, sono sempre stati tradizionalmente definiti come azioni che hanno una sua spazialità. Assumono che il potere sia circoscritto in un determinato perimetro e occupare quel perimetro significa destabilizzare e demolire il potere. Ora, senza dubbio, un'azione come quella di un'occupazione ha un fortissimo effetto a livello locale. La mia impressione è che, anche a seguito di quello che questo collettivo scrive, è che nel momento in cui il potere si sposta dal carne spazio al cyberspazio, con sé si porta tutta quella serie di beni che quando tradizionalmente si vanno ad occupare un posto vengono demoliti, distrutti o occupati, insomma se ne toglie la proprietà al potere. Ora, nel contesto in cui viviamo in questo momento, la sede fisica del potere, come ho detto, non è più importante. È più importante la velocità a cui esso si muove e la velocità con cui il potere riesce a trasferire determinati beni all'interno del cyberspazio. La seconda domanda è quindi: se non possiamo più sottrarre dei beni di valore al potere occupando dei determinati spazi, quali sono, che forma hanno i beni di valore non è il termine più adatto, però insomma, quali sono i beni strategici che il potere ha e che riesce a muovere così velocemente nel cyberspazio? Sono i dati, quindi che significa occupare dei dati? Abbiamo delle strategie per individuare questi beni e occuparli, prenderne possesso, come abbiamo fatto in passato con degli spazi fisici? Ultima domanda e ho finito. In tempo, immagino. Siamo abituati a tutta una serie di azioni fisiche nel carne spazio. Ora, se il potere si sta muovendo nel cyberspazio, è indubbio che tutte le conseguenze delle manifestazioni più repressive del potere nascono nel cyberspazio, ma si manifestano nel carne spazio. Ora, abbiamo 20 anni e oltre di esperienza di azioni fisiche nel carne spazio, possiamo rimmaginarci queste azioni in un modo che abbiano una presenza fisica nel carne spazio, ma abbiano una conseguenza tale da poter andare a colpire il potere nel cyberspazio? Ciao! Mazza, ma è forte. Ah sì, io urlo. Dunque, è una presentazione in cui presento una cosa che avevo già presentato forse a Bologna all'Accordai, credo, stronzo. Ti vedo dove sei. Che è Circolog. Circolog è un progettino che nasce da un giorno che ho avuto questa precisa necessità. Cioè io stavo debuggando, tra l'altro, un server XMPP, quindi quello che qualche ora fa ho presentato. Ovviamente c'era qualcosa che non funzionava e io quindi avrei voluto attivare il debug per capire meglio. Però se tu attivi il debug su un server XMPP, loghi su disco i messaggi delle persone, il che non è particolarmente gentile. verso di loro, perché magari tu gli avevi detto che avrebbero avuto una cosa più riservata e non che salvavi addirittura i loro messaggi su disco. E quindi ho iniziato a chiedere a chi conoscevo che aveva dei server: ma voi come fate a fare il debug senza salvare le cose su disco? E ho ottenuto un po' di soluzioni che erano abbastanza fantasiose, tipo attivo temporaneamente i log ma su TempFS, così poi non finiscono su disco. Oppure altre soluzioni altrettanto fantasiose. Però mi è sembrato strano che non ci fosse un mezzo proprio preciso che faceva esattamente questa cosa. Allora ho detto: voi vedete che io in tipo mezz'ora faccio una bozza molto brutta ma che funziona, e ho fatto un'implementazione di syslog che ho temporaneamente chiamata circolog. Che cosa fa? È un server syslog, ovvero è in grado di ricevere messaggi. E tipicamente un server syslog dopo li salva su disco quei messaggi, organizzandoli in cartelle, quello che vuoi. E invece il mio li teneva in memoria e poi tu ti ci connettevi in HTTP dietro fornendo una password e lui te li ridava. E così non stavano mai su disco. E dopo un po' questa cosa si è evoluta, tant'è che avete visto che sito smargiasso che c'è, no? E c'ha persino la Skinema, che è la feature per cui il web aspettava. E Circlog Tail in particolare ha i colori, ecco, io questo qua ve lo volevo dire, cioè il logger vostro se non ce l'ha i colori, perché in realtà qui arriviamo a uno dei vantaggi, non si legge niente, arriviamo ad uno dei vantaggi, che è il fatto che siccome è un server syslog che non logga su disco, non ha bisogno di serializzare i dati come fa il syslog normale, e quindi c'ha i dati strutturati. Quando c'hai i dati strutturati, un sacco di cose le fai meglio, perché per esempio puoi dare un colore diverso in base all'errore. Ora non si legge niente lì, però tipo a questa riga qua è in rosso perché lì c'è scritto error, ok? Quindi le righe ti si colorano in base all'errore, che già secondo me è una roba veramente avanzatissima, ma soprattutto ci puoi fare i filtri. Cioè, in genere noi i filtri li loghiamo, li filtriamo con grep, che vabbè, è anche bella questa roba che c'ha Unix, che tutto è un file di testo, però grep mi sembrava così, veramente insufficiente. E allora abbiamo pensato, come potremmo filtrare meglio i log invece di usare grep? Per esempio, se io volessi vedere tutti quanti i log, almeno warning di Apache, più tutti quanti i log, incluso il debug, per esempio, di Prosody, come si fa? E allora abbiamo trovato un metodo che noi potevamo scrivere delle query tipo SQL, che però ci filtri i log, anche se in realtà non c'è nessun SQL dietro. Quindi per chi conosce SQL, tu puoi scrivere circlogtail meno where, tipo severity maggiore uguale di warning, or application name uguale Prosody. E quella roba funziona, quindi avete un logger in memoria che poi potete interrogare con una specie di tail fatto apposta, che c'ha tutte queste feature un po' fighe, che c'hanno i colori, c'hanno i filtri e cose del genere. Poi c'ha anche un'altra parte abbastanza simpatica, che è il fatto che i filtri non li puoi usare solamente quando greppi, ma li puoi utilizzare anche per dirgli che cosa salvare e che cosa no. Cioè tu gli puoi dire, tu quando sei attivo, alcune cose le puoi proprio scartare. E per fare questa cosa c'è un'altra utility che è Circlog Control, con cui tu puoi dirgli che d'ora in poi lui deve per esempio ignorare tutti quanti i messaggi di un certo tipo. Perché è utile questo? Perché a volte capita, che ne so, che c'hai il driver della scheda video che ti spara warning uno ogni 10 secondi e quindi ti riempiresti i log di cose che non ti servono. Oppure puoi fare in modo che tu puoi mettere in pausa il logger, quindi tu fai un tot di cose, quello c'hai dei bug attivi, quindi spara tonnellate di merda, appena hai riprodotto il bug fai pausa e poi ti consulti i log, che a questo punto non scorrono più. Insomma, è un progettino, l'abbiamo fatto nell'ultimo anno, che quando l'abbiamo presentato a Bologna era veramente un giocattolo, ora inizia a funzionare e allora abbiamo iniziato a testare come integrarlo effettivamente sui sistemi, e abbiamo persino, ma senza veramente metterci paura, abbiamo scritto persino la documentazione. E nella documentazione c'è soprattutto scritto come lo installi. perché l'idea è che in realtà noi in genere di Syslog ce ne abbiamo su un sistema uno solo e tutti quanti i messaggi vanno su Syslog. Breve storia di Syslog. Syslog è un qualcosa che ascolta su una socket speciale che è /dev/log. Tutti quanti per convenzione scrivono lì, quello legge e poi ci fa quello che gli pare. Ne esistono varie implementazioni, quella Busybox, Syslog NG, RSyslog e sicuramente varie altre, e JournalD ovviamente, e varie altre che non mi vengono in mente. Ora, la cosa veramente bellissima, e che quindi io qui volevo approfittare del talk per dire, è che Syslog è una delle tante cose fatta veramente con i piedi, nel senso che esistono due protocolli più almeno quattro varianti di un protocollo, e quindi quando voi dite faccio un server Syslog non si capisce il server de che dovete fa, perché ognuno implementa Syslog a cazzo di cane suo e tutto il mondo lo considera che sia normale. Cioè, se guardate il codice dei server Syslog, sono pieni di if con scritto tipo questa roba non sarebbe nel protocollo, però c'è un utility che mi manda i dati formattati sbagliati ma lo fa dal 75 e allora io me li prendo lo stesso, e cose del genere. Quindi il delirio vero è stato supportare più client che potevamo. Quindi, me lo sono perso. E quindi Circolog può girare in queste modalità. Lo potete tenere o come unico syslog del sistema, oppure lo potete mettere affiancato a un syslog principale. Quindi, per esempio, voi tenete il vostro RSyslog o syslog NG, e magari con quello salvate i log su disco in maniera tradizionale, magari filtrando in base al livello di gravità del messaggio, oppure scartando informazioni sensibili. Quindi magari avete un syslog NG che logga ma non logga gli IP o gli username o che ne so io. Però passate invece la versione integrale dei messaggi a CircoLogD, e quindi in questo modo in memoria potrete tenervi il debug. Gli abbiamo fatto persino l'integrazione con JournalD, così potete essere dei veri hipster con i sistemi alla moda, visto che ormai in realtà Syslog sembra, cioè Syslog NG o RSyslog non li usano più in tanti, e la maggior parte delle persone invece usano Syslog NG, e niente, più o meno questo è quanto. Abbiamo appena fatto la versione 1.0.0, cioè parlo al plurale perché l'altro è blallo, anche se non è qui a fianco a me, abbiamo appena fatto la versione 1.0 perché ci sembra che sia abbastanza stabile, e boh, secondo me è un bel affare se avete un server in cui non volete, cioè volete tenere fede alla solita promessa di non loggare tutto ciò che è sensibile per i vostri utenti, e oltretutto fare gli smart chassis con il server Syslog più colorato del mondo. Ciao. L'indirizzo è circolog.degenerazione.xyz e lì trovate tutto. È scritto in Go e quindi ha i binari di 12 mega, sì, non ce ne frega niente, è bellissimo. Sassa? Oh no! Buonasera, bene, io sono River. E stasera, sì, diciamo che dopo 2 ore che sono davanti al computer io tendo ad assomigliare di più a quello verde che a quello blu, di questo tipo, no? E quindi questa è la storia breve di quello che ho iniziato a fare nelle ultime settimane per muovermi dal verde al blu. Un altro modo per dirlo è che ero curioso di farmi fare questo, cioè ero molto curioso di farmi fare questo. Sì. Sbam! E poi sbam! Ed è una bella sensazione, ve lo posso anticipare. Ok, è una storia divisa in 3 capitoli. Il primo capitolo inizia da Agrigento, sotto casa di mia nonna, dove c'è uno studio di chiropratica. Senza troppe pretese, senza troppe aspettative, mi infilo dentro, piglio un appuntamento. Vi dirò solo delle informazioni che ho raccolto. Ok, la prima cosa che fa è mi ficca le dita nelle orecchie. Questo è un test che potete fare anche voi, si chiama click mandibolare, io ne ho uno a sinistra. Voi fate così e aprite e chiudete la bocca al massimo. Se sentite un click, siete nella situazione al centro, in cui il cuscinetto, tipo il piriculo, si infila nell'articolazione, e il cuscinetto, diciamo, siccome l'articolazione, la parte di sotto... si è un po' abbassata, e allora il cuscinetto lo becca solo a un certo punto, quando avete la bocca aperta a metà, no? Se non lo sentite, potreste essere messi bene oppure essere messi peggio, nel senso che non ci sale proprio sul cuscinetto. Sì, e quindi questa è una cosa. Poi mi ho messo su queste pedane qua, che misurano dove metti il baricentro. Il mio era molto, un po' spostato, discretamente spostato all'indietro. Ho capito dopo che, nel senso, io sulla pedana stavo dritto ed era spostato all'indietro, ma di solito non è spostato all'indietro perché il tuo corpo si, diciamo, setta per metterlo perfetto, solo che io di solito sono in avanti e quindi dal centro. Quando lui mi mette sulla pedana dritto, il mio baricentro è spostato all'indietro. Sulla pedana mi ha fatto fare 3 giri, uno me l'ha fatto fare con gli occhi chiusi e uno me l'ha fatto fare con la bocca aperta. I numeri incredibilmente miglioravano sia con gli occhi chiusi che con la bocca aperta, e questo è perché diciamo che non sono solo i muscoli a giocare un ruolo nella postura, ma anche gli occhi, la visione e le orecchie, un sacco di altre cose in realtà. Dopodiché, vabbè, ci siamo visti 2 volte, la seconda volta voleva le radiografie. Nella mia radiografia di tutto il corpo c'è poco da guardare, sono leggermente tipo così, ok? E il mio bacino è leggermente di 4 mm tipo alzato a sinistra rispetto a destra. Invece lui ha trovato un sacco interessante questa qua, che non è la mia, purtroppo le mie le ho lasciate a Palermo, però è molto simile alla mia. Lui è messo bene, nel senso c'ha i denti dritti, però la cosa che lo frega, che è quella che frega anche me, ed è anche il punto più importante da guardare in una radiografia del genere, sono gli ultimi denti. Lui in particolare a sinistra, diciamo, c'ha meno spazio di quello che c'ha a destra nell'ultimo dente. Quando lui apre e chiude la bocca, a sinistra in fondo si chiuderà prima, i denti toccheranno prima. E questo ti sfasa un po' di cose, è una simmetria. Che ha, diciamo, ripercussioni su tutto quanto, tutta la storia. E quindi quello che mi ha detto lui dopo aver guardato questa immagine è stata: va bene, allora lo sai che fai, tu ti levi il dente del giudizio in alto a sinistra e poi torni. Io mentre guidavo da Agrigento a Palermo ho detto: non so come levarmi un dente, diciamo, possa rendere la situazione più simmetrica, e quindi ho detto: è il momento di andare sul web a fare delle ricerche. Che apre il capitolo 2. Questo signore è il dottor John Mew, che ha fatto un gran lavoro il dottor John Mew, non sto qui a dilungarmi, però ci sono 3 cose che secondo me sono importanti. Fa parte di una, cioè 3 generazioni di fila di dentisti. Suo padre era un dentista, lui è un dentista e suo figlio è un dentista. Suo padre è stato tipo un pioniere, tra i primi a montare gli apparecchi per dilatare il palato, no? E quello che lui ha fatto, lui il figlio, questo qui, praticamente è andato a prendere tutti i pazienti di suo padre, ha visto che quando gli montava l'apparecchio potevano succedere 3 cose. La maggior parte delle volte il palato si restringeva di nuovo e tornava alla situazione iniziale, altre volte rimaneva come dopo averlo espanso, incredibilmente altre volte continuava a espandersi, no? Com'è possibile dopo che gli ha levato l'apparecchio continua, no? Che è una cosa buona. Se l'è spiegato perché le persone a cui il palato continuava a espandersi è perché tenevano la lingua attaccata al palato e la bocca chiusa, e quindi si è convinto che questa cosa è molto importante per il corretto sviluppo di tutto il cranio, e ha, diciamo, postulato quello che leggete al centro. In più ha capito che insomma, la malocclusione, che è quella condizione in cui una parte della bocca ti si chiude prima dell'altra, che ha ripercussioni su tutto quanto, è causata dallo stile di vita moderno, in particolare da questo fatto che non molti di noi, almeno, non tengono la lingua sul palato. E questo, diciamo, porta a uno sviluppo del cranio anche un poco asimmetrico. In realtà quello che succede è che il cranio tende a crescere in verticale, come a destra, e non in orizzontale verso l'alto, come a sinistra. Una cosa che succede quando teniamo la lingua in basso è che, siccome la parte anteriore della lingua è in basso, la parte posteriore tende a essere in alto, a occludere le vie aeree. È per questo che ci buttiamo in avanti per liberare le vie aeree. Come vedete nella figura, la persona con la faccia più lunga c'ha le vie aeree più ampie. Questi sono i tipi di malocclusione. che si classificano a seconda se c'è l'arcata dentale di sopra o di sotto, più avanti o più indietro, e vediamo come sono collegate ai difetti posturali. Io sono nel caso 2. Yes. A questo punto iniziamo a vedere come tutto quanto, diciamo, è una catena. Perché una volta che il tuo piano dentale non è perfettamente orizzontale, quello che succede è che le spalle si adattano, e in particolare se tu hai un occhio più basso, la spalla viene su per riportare gli occhi sullo stesso piano, perché dà una priorità agli occhi. E vediamo un'altra cosa interessante di questa slide, è che i due piedi sono su, uno più avanti e uno più indietro. Questo è facile testarlo con il test del saltello, voi non guardate giù, fate così e poi guardate quale avete più avanti, di solito funziona. Bene. A tutto ciò è associata anche una rotazione del bacino, oltre che un, diciamo, differente altezza delle due parti del bacino. Di solito questo succede tutto assieme. Come potete immaginare, nella spina dorsale passano un sacco di roba importante, sangue, un sacco di cose, nervi, di tutto, di tutto. Ovviamente il disclaimer non c'è bisogno che lo faccio, lo capite che non sono un medico. Però capite anche che, insomma, un po' di roba importante là ci passa, e che è buono che sia allineato, va. Non vi fa male, se state dritti non vi fa male. Qua vado veloce. Questa è una breve e incompleta lista di patologie, di problemi che la medicina occidentale riconosce che sono correlate alla insufficiente affluenza di sangue in varie parti del cranio, però attribuisce principalmente a fattori genetici. Ora, a me non mi piace attribuire la roba a fattori genetici, perché mi leva ogni possibilità, no? E quindi, insomma, a me non piace. Ci avviamo verso la fine, capitolo terzo, il mio secondo uomo. Yes, il mio secondo uomo invece ha prestato attenzione di più a questa radiografia, e in particolare in questa radiografia quello che si vede attraverso la bocca è la seconda vertebra, che viene chiamata epistrofeo, che ha un dente che la incastra alla prima vertebra, lo vedete lì proprio sopra la lingua e sotto il labbro superiore. Nella successiva si vede meglio. Questa vertebra nel mio caso era leggermente spostata, vedete come i denti centrali non c'entrano niente con il cavolo di dente della, cioè non sono per niente allineati. Il dente della vertebra è lì, mentre il centro dei denti è lì. E io non sono messo così male, però diciamo che la situazione è quella. E quindi quello che ha fatto è detto: va bene, a posto, ora tu vieni qua, sdraiati sul lettino. E niente, mi ha fatto scrack. Scrack, le manovre sono sempre simmetriche, quindi una volta sei sul fianco destro, una volta sei sul fianco sinistro, e poi ti alzi e dice: come ti senti? E io mi sentivo tipo, se di solito magari posso arrivare a sentirmi come effettivamente sono un po' a destra, mi sentivo tipo così. Però poi mi sono guardato allo specchio e ero dritto. Raga, quel giorno è stata davvero una bella sensazione, nel senso, davvero bella. In più, devo dire, secondo me, non ho troppi dati oggettivi da offrirvi, però sicuramente, tipo, quando io facevo così, sentivo cric cric cric cric cric cric cric, mentre ora sento molto meno cric. Questo è in dubbio, questo è in dubbio. Dopodiché mi ha detto, va bene, e poi lui, davvero, uno di noi, raga, sicuramente è fortissimo a craccare la roba. Dopodiché mi ha detto: vieni qua che ti metto pure gli ASP. E mi piglia per il culo pure lui con queste robe con le tre lettere. E quindi questi ASP erano degli aghi semitemporanei, semipermanenti, scusate. E me ne ha sparati, appunto, in corrispondenza di quell'articolazione là, l'articolazione temporomandibolare. Bam, bam. Hanno questa forma qua e sono lunghi meno di mezzo centimetro. Ce li ho ancora là. Ok, e a questo punto ovviamente cambiare la propria postura è una cosa che fai nel quotidiano, non è che vai da uno, ti scricchia ed è a posto. Ok, quindi è l'ultima slide. Quindi, riassumendo i consigli che mi sento di darvi: la lingua tenetela sul palato, la bocca tenetela chiusa, e se riuscite prestate anche attenzione a quando deglutite, a deglutire in maniera corretta. C'è un modo di deglutire in maniera corretta. La simmetria, io non avevo idea ovviamente, la simmetria è un'ottima cosa sempre. Per esempio c'è il classico modo di sedersi a gambe incrociate, ce n'è uno migliore, spostare un piede sul ginocchio è meglio. Movimenti al collo, questo qua, questo qua, questo qua, che ho fatto un delirio a box. Questi qua è meglio non farli perché ti macinano il disco intervertebrale, mentre questi qua sono molto buoni. Mentre si dorme, vabbè, semplicemente non dormite sulla pancia se riuscite a evitarlo. Niente nelle tasche di dietro, raga, questo proprio subito me l'ha detto. Che cazzo ci vuoi? Esatto, la gonna è un'ottima soluzione. Ergonomia, l'ergonomia è una cosa interessante. Per esempio, se vi ricordate alle elementari da bambini, sì, continuavamo a inclinare la sedia. E questo è perché in effetti, soprattutto quando si sta tanto seduti, è buono avere la sedia leggermente inclinata perché ti aiuta a tenere la schiena dritta. E quindi questo è un altro consiglio. E poi vabbè, ovviamente la ginnastica posturale e lo yoga vi daranno una mano. Grazie, state in bolla. Ci provo, allora, buonasera, mi appoggio per la postura. Allora, devo fare tre premesse e raccontare una storia, non c'è una presentazione. Le tre premesse sono: la prima, che sono un po' in sindrome da esame di quinta elementare, cioè la prima volta che fate un esame in vita vostra, perché non so assolutamente quello di cui andrò a parlare in termini specifici, specialistici. La seconda premessa va a catena, potrò dire una manica di cazzate. La terza premessa è che è un misunderstanding, mi avevano detto, avevo capito che era un incontro informale con 4-5 persone per scambiarsi delle idee e invece siete un botto. Vabbè, non fa niente, ce la farò. E la storia invece è la storia di un ex insegnante che con il collettivo di cui faccio parte abbiamo incontrato in Sardegna mentre parlavamo con il coordinamento dei comitati contro le devastazioni sarde, e lei a un certo punto è uscita fuori con un libricino in cui ci diceva: oh, ma voi la state a studiare sta storia della blockchain, se storie dei bitcoin? Perché qui in Sardegna abbiamo delle serre fotovoltaiche, che era una speculazione che si è fatta in Sardegna ma che poi non ha mai visto la luce realmente, e dentro ci vogliono mettere dei server, perché è l'unico modo per utilizzarli, e questi server andranno con l'energia solare delle serre fotovoltaiche, che non hanno mai attratto questa energia solare, non hanno mai funzionato in pratica, perché era una speculazione di un gruppo cinese e di un gruppo spagnolo insieme, e serviva solamente per degli asset finanziari. E quindi da questo momento il collettivo di cui faccio parte è entrato in trip con questa storia della blockchain e di quanta energia può consumare e gestire dei computer che generano blockchain, e che tipo di energia serve per portare avanti, cioè se serve una costanza di energia, se serve una potenza di energia tale da essere compatibile con la transizione energetica, quindi con energie più possibile fotovoltaiche, roba così. Purtroppo, o per fortuna, stiamo facendo una ricerca oltre che sulla giusta transizione energetica, cioè su una transizione energetica equa e alla portata di tutti, che non crei squilibri sociali, per esempio, non lo so, le cose super green, sostenibili per i ricchi che se lo possono permettere, e i poracci criminalizzati perché utilizzano invece ancora energie antiquate. E questa cosa si è legata molto a un'altra ricerca che stiamo facendo sui mega corridoi della logistica, quindi non lo so, l'esempio più, più noto è la Belt and Road Initiative, la nuova via della seta, e queste cose abbiamo visto che si incrociano, perché nell'ipotesi che stiamo studiando, e il motivo per cui sto parlando è che chiedo a voi, chiunque se ne sia occupato, di collaborare, di darci una mano e di incrociare i dati, nell'ipotesi che stiamo pensando, l'automazione della logistica, cioè il correlare, diciamo, la meccanica dello spostamento della logistica con l'incremento del codice della blockchain, può aver bisogno di intere cittadine che si occupino solamente di generare l'energia per questo comparto specifico della logistica. Il che, secondo noi, significa una completa ridisegnazione, vabbè, si potrà dire, dei territori, senza ovviamente privatizzando dei territori, utilizzandoli solamente per la generazione di un'energia particolare e costante che serve a portare avanti questi sistemi. E questa cosa, secondo noi, è molto, crea un nuovo sistema che, in maniera, con l'immaginazione, in maniera futuribile, potrebbe generare delle città di tre tipi: una città per i poracci, inquinata, dove si stocca o si brucia monnezza, roba così; la smart city per i turisti, super IEA, che memorizza qualunque passo tu faccia, anche quando attraversi la strada sulle strisce; e poi invece le città data center, che hanno in sé sia la produzione, sia la produzione di energia costante per mantenere questo sistema, sia appunto i server e i mega computer che servono per gestire tutto questo. Quindi, dato che ci sono ancora 5 minuti, mi dico alla regia, utilizzateli, li posso cedere, non so le regole precise. Però se qualcuno ha qualcosa di interessante da aggiungere, link, contatti o roba del genere, noi abbiamo iniziato solo da 6 mesi e quindi ci farebbe molto comodo una mano. Ho portato delle pubblicazioni un po' antiche, le potete prendere, girare, fare quello che volete, e sul concetto di energia, come l'energia si interfaccia alla finanza, come e perché energie alternative, quindi come organizzarle, come decentralizzarle, eccetera eccetera. E poi c'è un'altra copia, che però ho finito i numeri, che era su che significa la disuguaglianza energetica. Secondo noi sono tutti temi che fanno parte di un'analisi del capitalismo che sta arrivando, e quindi è bene che condividiamo il più possibile per trovare le contromisure. Posso finire in anticipo? Ciao, io sono Itek di Aclabo, la Club di Bologna. Vi racconto un po' del sistema telefonico che è stato messo su ad Hack Meeting. Il talk si chiama Ti amo ma quanto mi costi, che era uno slogan, un tormentone fine anni 80, inizio anni 90 per la teleselezione, e che era praticamente quanto costa, cioè era uno sconto sulle telefonate durante la notte, così. Io un po' di anni fa ho cominciato a appassionarmi a dei telefoni, principalmente quelli a rotella, quelli che bene o male tutti abbiamo avuto in casa, il bigrigio, il telefono con 2 toni di grigio con la rotella. E al che ho cominciato a raccoglierne un po', e poi dopo mi sono fatto prendere anche da telefoni di design, sia con la rotella sia senza, telefoni tedeschi, cioè robe un po' particolari, e addirittura fino alle cabine telefoniche, purché avessero la rotella, che è una roba che mi ricorda gli anni 80, e comunque è bello perché è elettromeccanico, cioè ancora una tecnologia prima del digitale. Però per far rivivere questa tecnologia, qual era il sistema migliore? Cioè, è bello possedere l'oggetto, ma se l'oggetto funziona dà più soddisfazione. E quindi mi sono appoggiato alla tecnologia moderna, che è il Voice over IP. Il Voice over IP è un sistema per incapsulare la voce su un protocollo, su dei dati. E c'è un software che si chiama Asterisk, che è un niente di meno che un centralino telefonico, che è tutto basato via software. Per farlo parlare con dei telefoni del genere ci vogliono dei media gateway. I media gateway prendono il segnale analogico del telefono e lo fanno diventare segnale digitale. Un media gateway, ad esempio, è il modem Fastweb o il modem Telecom che dietro ha le due prese per attaccarsi un telefono. In realtà la vostra voce non viaggia più sui fili di rame come faceva una volta, ma viene convertita in dati e viaggia tramite internet. Qua a Duck Meeting cosa abbiamo fatto? Un po' per sfizio, un po' per divertimento, un po' perché è una cosa curiosa, è stato messo su un centralino Asterisk. E Asterisk tendenzialmente è abbastanza complicato da configurare, però per fortuna ci sono delle interfacce grafiche, addirittura delle distribuzioni, e io ho usato RaspiBX, che è una distribuzione che va su Raspberry Pi. E poi abbiamo creato un po' di numeri interni. I numeri interni li avete visti, ad esempio, all'angolo del bar, oppure dentro al bar, oppure sul tavolo del LAN space ci sono un po' di numeri di telefono. E a gratis con questo sistema vengono fuori anche dei servizi, tipo l'eco, che permette di chiamare un numero e sentire la propria voce. Questo serve per misurare i ritardi nella comunicazione. E poi ci sono dei servizi curiosi come l'ora esatta, quindi componendo un numero viene detta l'ora esatta. C'è la sveglia, quella che c'è negli alberghi, che si digita sulla tastiera l'orario a cui vuoi essere svegliato e a una certa ora il centralino ti richiama indietro. E poi stiamo mettendo su dei servizi curiosi, tipo chiamando l'1359, che è la frequenza di Radio Wombat, si sente in radio lo streaming, cioè al telefono lo streaming di Radio Wombat. Ovviamente, oltre a questo, abbiamo dei telefoni sparsi in giro che ci si può chiamare a vicenda. Ah, c'è anche una fantastica meeting room, chiamando il 7666, che sembra un numero astruso, così come il numero per l'ora esatta. Li trovate tutti fuori dal bar dove c'è il telefono. Sono dei vanity number, cioè sono dei numeri. Uno si ricorda room, e digitandolo su una tastiera con le lettere sopra è esattamente 7666. E niente, il service room ad esempio è una meeting room in cui uno entra e poi può parlare con tutti gli altri che sono dentro a questa meeting room contemporaneamente. Oltre a questi telefoni pubblici e a un telefono di servizio ad esempio che è in radio e dei telefoni che probabilmente spargeremo anche domani fuori in cortile e così, potete richiedere un telefono personale. Venite da noi, ci dite che numero volete e vi possiamo assegnare un numero che potete configurare sul vostro smartphone. Per semplicità si installa un'app, però se siete collegati alla wifi di AcMeeting vi loggate con questo numero e potete fare e ricevere chiamate a questo numero. Abbiamo anche la possibilità di attaccare dei cordless DECT. Quindi se avete il classico cordless di casa lo possiamo attaccare al sistema telefonico e vi possiamo assegnare un numero. E così nell'area in cui prende la wifi o prende il DECT potete chiamarvi tra di voi. Sono successe cose divertenti in questi giorni, gente che faceva chiamata a caso, gente che rispondeva a caso, litigi o robe divertenti, insomma. Sexy shop, dice... No, non c'è una room per le cose notturne, però siamo aperti, siccome è il primo anno che facciamo una roba così, sembra che a qualcuno sia piaciuto, è divertente. Se volete venire da noi, avete delle idee, ci volete proporre qualcosa, domani ci trovate in LAN space e io e un altro gruppetto di persone possiamo, insomma, ricevere le vostre richieste, creare interni del centralino e così. Vi do un'anteprima per domani, ancora non l'abbiamo fatto, ma domani ci sarà un numero, chiamandolo avrete delle mannagge. Per chi ha sentito il talk sul mannaggiatore in passato avremo una linea diretta per mannaggiare Santi e poi novità, avremo anche una linea di orgasmi, ma questo ve ne parlerò ve ne parlerò domani sera sui 1067 orgasmi. Grazie, ciao a tutti. Ciao, sono Filo della Buridda di Genova e l'altro anno ho presentato un talk a proposito di autocostruzione di impianti solari fotovoltaici. Alla fine di questo talk ho presentato, insieme all'altro compagno di Genova, un progetto che avremo portato avanti l'estate scorsa, che si chiama la spedizione, che si chiama ancora in corso, la spedizione solare. Sono qui per raccontarvi com'è andata, perché ora a posteriori, ve l'ho anticipata l'altro anno, ora vi racconto cos'è successo. Allora, la spedizione solare è un progetto che nasce con l'intento di muoversi a... ecco qua, di muoversi a costo zero, non tanto dal punto di vista economico, ma più dal punto di vista energetico. Cioè, l'idea col quale abbiamo tirato su questo progetto era quella di muoverci, di viaggiare, utilizzando le energie in gioco nell'ambiente circostante. In particolare abbiamo sviluppato due mezzi. Quello che ora ci apre, la Poderosa, la bici solare, che è una bicicletta elettrica pedalata assistita con appresso un carrellino fotovoltaico con una potenza di 50 watt che ha ricaricato la batteria della bicicletta. Questa bicicletta si ricaricava anche in pedalata assistita. E l'altro mezzo è Elettra, la barca solare, che è questa barca fotovoltaica. C'è un Canadian, una barca di alluminio di 3,70 m, sul quale sono stati montati tre pannelli solari con una potenza complessiva in picco di 750 watt per raccogliere l'energia e utilizzarla con il motore elettrico, questo che vedete dietro. Ovviamente tutto è nato con una serie di progetti profondi. Come vedete, questo è il, no, si vede molto male, però questo è il disegno del progetto, giusto per far vedere la serietà. Questa avventura, oltre che diciamo interessante dal punto di vista costruttivo, che ci abbiamo messo un anno per tirare su questa barca, è stato interessante proprio il viaggio stesso, cioè è stata un'avventura, cioè tu ti metti in mare e vedi un po' cosa succede. L'obiettivo era arrivare all'isola d'Elba, perché era un posto raggiungibile, insomma. Cioè, uno dice, c'ho la barca, devo andare in un'isola, no? E che partendo dalla Liguria, l'unica isola raggiungibile, non superando le 3 miglia, che è una sorta di sicurezza, era l'isola d'Elba. E allora il viaggio erano 140 miglia in mare e 250 chilometri a terra. Poi, insomma, vabbè. E cos'è successo? Cosa non è successo? Insomma, il viaggio procede bene fino a Spezia, dove si rompe il regolatore di velocità. Quindi noi in mezzo al mare, lì ad aggiustare cose, a smontare staffarino fatto male, che si era bruciato con la plastica, suon di 50 ampere che fluivano. Bene, riusciamo lo stesso, continuiamo. E la prima vera battuta di arresto arriva a Livorno, in realtà appena dopo Livorno. Riusciamo a superare il porto attraversando l'entrata del porto come se fossimo, immaginatevi una paperella che sta lì, prima di attraversare l'apertura guarda ben bene che non ci siano le navi, quelle che non ti vedono, perché se escono di lì e tu esci dalla diga non ti vedono, quindi terno all'otto, vabbè, andiamo. Riusciamo a superare il porto e ci cade una cima in acqua che ci finisce nell'elica. E quindi si surriscalda cose, insomma, cosa è successo? I cavi sono caldi, stacca tutto. Poi, insomma, riattacchiamo, partiamo, va tutto. Arriviamo al posto dove abbiamo dormito. In questo posto siamo pronti la mattina dopo per ripartire. Dopo aver mangiato, insomma, dormivamo in spiaggia ovviamente, perché questa barca è quello che ti permette. E facciamo per ripartire la mattina dopo, il motore non si muove. Com'è? Come non è? Prendi, va bene, questa giornata è cacciata, bisogna smontare tutto. Prendi, smonta, uno dei due che era in barca prende, va a cercare pezzi di ricambio, cioè i cavi elettrici, un po' di morsetti, un po' di robine che si erano bruciate. rimontiamo tutto il motore sembra perfetto, testiamo tutti i contatti, sembra magnifico, lo mettiamo in acqua per andare, niente, non gira. Com'è, come non è, insomma, diamo per scontato che questo motore è saltato. Cerchiamo un altro motore di riserva, ne troviamo uno in prestito, ma ce lo dovevano portare, e gentilmente ci è stato portato da un compagno che è anche qua, l'ho visto in giro, e che ha avuto la gentilezza di portarcelo in macchina. Arriva questo motore, ma il motore non aveva l'elica. Non avendo l'elica, come facciamo? Diciamo, vabbè, c'è l'elica dell'altro, insomma, ce lo montiamo. E invece, ovviamente, era tutto, non si poteva fare. Allora, prendiamo l'elica, cioè, io in realtà dico, va bene, devo adattare questi due, vado a cercare degli strumenti che mi permettano di fare questa cosa. Ovviamente eravamo partiti con una bella cassetta, trapano, 12 volte rigorosamente, perché insomma, e partiamo, cioè prendo, mi carico il motore in spalla, faccio l'autostop, ovviamente subito non vengo cagato con tutto sto ambaradan di coso. Poi si fermano due che andavano a lavorare e mi dicono, guarda, noi andiamo vicino alle Leroy Merlin, ti portiamo lì, qualcosa lo trovi. Io dico, perfetto, un posto così ci avrà un sacco di cose. E invece un cazzo. Sono riusciti in 2000 metri quadri di spazio a non avere un cazzo di dado 8 passo fino, di quelli 8 per un millimetro. Niente, non si trova, vabbè, esco di lì, faccio per andare in un altro posto, dico vado verso il porto avranno qualcosa. Faccio autostop, non si ferma nessuno. Allora prendo l'autobus, passa l'autobus e riesco a salire. Però non avevo soldi per pagare il biglietto, mi era rimasto da ritirare, gli dico guarda, io sto messo così, insomma, sono lì. Mi fa, ma dove devi andare? Cosa devi fare? Ma dove mi vendono un dado per rimetterlo qua, insomma. E lui mi dice, ah, ma non c'è problema, vieni con me, ti porto al capolinea, poi di lì cammini 100 metri, sei in officina, chiamo Gino, e Gino arriva e ti aiuta, ok? Cioè tu vai all'ingresso, chiedi di Gino, e Gino è lì, e ti aiuta. Va bene, arrivo. Questi invasati, bellissimo, immaginatevi questa situazione di essere in mare, non avere mezzo utensile, e entri in un'officina di autotrasporti. Tutto, caro Ponti, Trapani a colonna, tutto il sogno di quello che voi intimamente immaginavate. Si arriva quindi a lì, riescono a montare quest'elica sul motore, io esco dall'officina col motore in spalla, contento all'inverosimile, con l'elica montata, prendo, vado, autobus, cambio autobus, riesco ad arrivare finalmente dove era la barca, monto il motore, carica tutto in barca, pronti via. Partiamo, il motore, poi dico, questo va, che va, lascia stare, l'altro era proprio una merda. Andiamo, mezz'ora, pam, rotto. L'errore poi scoperto a posteriori era che l'elica del primo motore aveva un passo troppo duro rispetto all'elica che avrebbe voluto il secondo. Quindi lui non raggiungeva mai il numero di giri desiderato e quindi assorbiva sempre più corrente di quanto poi poteva fare. Quindi il viaggio si è concluso a Quercianella, che è poco sotto Livorno, e lì insomma abbiamo dovuto ricaricare la barca, ci siamo fatti venire a prendere in macchina, abbiamo caricata sulle barre e siamo rientrati tristemente. In 2 ore eravamo a Genova dopo 10 giorni di navigazione, giusto per dare un'idea di quanto uno si può permettere con l'energia in gioco. E niente, a posteriori è stata una delle cose più divertenti che ho fatto. E immaginatevi delle strane avventure, fatele perché è proprio divertente. La bici si è fermata più o meno lì perché poi non avevamo più gente che ci andava e insomma c'è stato un cambio a metà strada all'altezza di Massa e poi doveva rientrare insomma, e quindi anche quella si è fermata più o meno lì. Il motore più o meno 620 watt. E sì, però tieni conto che quando converti, cioè questi qua tra l'altro erano pannelli da casa, quindi la tensione di lavoro era un po' più alta, quindi poi in realtà ne prendevano di meno, quindi poi sostanzialmente io tenevo anche il motore un pochino sotto e ogni tanto gli davo un po' di più. Qua c'è un albero, si vede, aspetta che... E ho costruito una vela quadra, perché insomma, deriva non ce n'era e quindi bisognava usare solo i venti in poppa e quindi quello era, quello è stato su. E infatti il timone, scusate, se vedete qua il motore, c'è anche una sorta di pala che fungeva da timone. Quindi quello che c'era di vento l'abbiamo sfruttato. Comunque la velocità di crociera era 2 o 3 nodi, non di più, insomma. Facevamo in modo di non beccarlo, cioè guardavamo le previsioni prima di metterci in mare. Questo era tutto molto... Se vedete qua i galleggianti dei pannelli solari comunque portavano via un po' di... Cioè insomma non erano proprio idrodinamici, vedi un salsicciotto, così doveva fare galleggiare. Però sì non male sicuramente. Fai conto che di navigazione effettiva abbiamo fatto 7 giorni per coprire una distanza di circa 100 miglia, quindi facevamo quei circa 15-16 miglia al giorno più o meno. Ma quello in bici ci dava lungo. A parte in Liguria che c'è, insomma, sali scendi e quindi era un po' più complicato, poi in Versilia. Sì. Ma infatti ha dovuto un po' spingere, ha un po' sottodimensionato.